fratello, giro un blunt e lo fumiamo in pubblico. Non cerchiamo compromessi, dacci tutto subito. Vestito solo di bianco come stessi a Wimbledon. Demoni alla tua parte, a sentire din don. Vivere il Matrix mi fa sentire come l'albatro. Succo di zanzero rivela tutto il mio terzo occhio. Il mio amico non scherza, ti immerserà in ginocchio. Morirà per la gang, i nemici e la squadra. Beccano giù nel rione con la faccia bloccata. Di bugiardi li guardo in faccia, non ho parole. Stanno odiando il tuo orologio, però vogliono il tuo Rolex. E due ragazzi senza gioielli e senza corona. Sto sposato al rione come fosse un matrimonio. Ogni giorno guardo il cielo, grazie a Dio sono di Roma. Gioco, non mi serve. Questi rapper sono bussi, ma strada all'inferno. Sono il re del rione, pensano che scherzi. A palle potrebbe farglielo vedere. E parlarmi alle spalle non serve a niente. Se non parli di soldi non dire niente. Spostandoci di sui dipende niente. Non so davvero da me, posso per me. Benvenuto a Darkland. Ti vengo nei brividi. Non sono storie per bambini. Piccoli brividi. Sei un pupazzo.